Possiamo accomodarci e se hai la possibilità e il desiderio di prendere appunti, io ti invito a prendere un foglio, un block notes, una penna, perché oggi io voglio darti alcune indicazioni che spero possano essere memorizzate da te e vissute soprattutto in questa stagione e anche in generale nella tua vita. Io oggi voglio parlare di qualcosa che mi sta toccando da vicino e che sto elaborando con il Signore e sto studiando nella sua parola, e voglio parlarvi della sofferenza. Ed è una tematica meravigliosa perché ci apre la possibilità di comprendere, quando noi studiamo biblicamente la sofferenza, ci apre la possibilità di comprendere come la sofferenza nella vita del cristiano è un mezzo di crescita, di arricchimento, di perfezione. E voglio subito leggere un paio di versi che troviamo in Ebrei, entrambi li troviamo nella lettera agli Ebrei. Il primo verso si trova nel secondo capitolo al versetto 10 e dice questo: conveniva infatti a colui per il quale e per mezzo del quale sono tutte le cose, cioè Dio, nel portare molti figli alla gloria, di renderlo perfetto. Di rendere perfetto chi? Gesù. Di renderlo perfetto per mezzo di sofferenze l'autore della salvezza. Di rendere perfetto per mezzo di sofferenze l'autore della salvezza. Chi è l'autore della salvezza? Cristo Gesù. E come Dio ha reso perfetto Dio? Attraverso la sofferenza. Leggete con me quest'altro verso, sempre in Ebrei, capitolo 5, versetto 8, dice: benché fosse figlio, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì, è reso perfetto. Vedete di nuovo questa parola: è reso perfetto, divenne autore di salvezza eterna per tutti coloro che gli ubbidiscono. Questi versi ci parlano di qualcosa di molto strano in realtà. Ci parlano del perfezionamento di Cristo e la domanda nasce spontanea e subito per chi conosce Cristo, per chi sa che Cristo è Dio, per chi conosce la sua storia, subito qualcosa salta in mente nel leggere questi versi, salta in mente una domanda: ma Cristo non era già perfetto? Prima che lui soffrisse non era già perfetto? E la risposta è sì, inevitabilmente sì, senza ombra di dubbio sì, Gesù era perfetto, perfetto moralmente, non ha mai peccato. Nessuno ha potuto incolparlo di alcuna cosa, era perfetto nella sua attitudine, nel suo modo di vivere. Lui era un esempio di vita, era perfetto in ogni cosa, in ogni scelta, era guidato da Dio. Quindi perché questi versi ci parlano del fatto che Gesù è stato perfezionato attraverso la sofferenza? Beh, questo termine perfezionamento è anche un termine che si può tradurre con completamento. Lui è stato completato nella sofferenza. E Cristo Gesù, noi comprendiamo attraverso questi versi, che non era completo fin quando non ha sofferto, che non era perfetto fin quando non ha sofferto. Perché? Che cosa ha aggiunto la sofferenza nella sua vita? Beh, la sofferenza nella vita di Cristo Gesù ha aggiunto tante cose importanti per noi. Una cosa fondamentale che ha aggiunto a Cristo, al nostro Dio, è il fatto che Lui, attraverso l'esperienza, non solo la conoscenza, perché sicuramente Cristo conosceva la sofferenza, Dio conosceva la sofferenza, ma attraverso l'esperienza della sofferenza si è avvicinato agli uomini. Lui ti comprende nella sofferenza e ti comprende bene nella sofferenza, perché lui ha subito e ha sofferto ogni tipo di sofferenza che noi viviamo. Ogni tipo, non solo alcuni, e lo vedremo insieme. La sofferenza ha aggiunto la possibilità a Dio, al nostro Dio, di manifestare il suo amore per noi, comprendendo esattamente di cosa soffriamo, cosa proviamo quando soffriamo, e in più ha dato l'occasione a Dio di avvicinarci a noi, Ancora di più, quando noi leggiamo che Cristo è l'Emanuele, Dio con noi, beh, nella sofferenza Dio si fa veramente con noi. Gesù non è venuto e non ha vissuto qui su questa terra rinchiudendosi in un palazzo sfarzoso, vivendo il lusso e dicendo: a questo vi ho destinati, quindi senza sofferenze, senza alcun tipo di mancanza. No, lui si è fatto avvolgere dalla piena esperienza di ogni uomo su questa terra per essere quanto più vicini a noi, per comprendere quanto più possibile quello che noi patiamo e affrontiamo nella vita terrena. E io voglio che tu possa prendere il pieno incoraggiamento da questa cosa, perché non so se ti è mai capitato di parlare con qualcuno e di esprimere magari in che cosa tu stessi soffrendo in quel momento e sentirti dire delle parole, magari anche di incoraggiamento, ma da parte di qualcuno che non aveva la più pallida idea di quello che tu stavi attraversando. Beh, un conto è avere a che fare con una persona che ha vissuto le tue sofferenze, può parlare alla tua vita perché ti conosce, conosce quello che stai affrontando. Un altro conto è avere l'incoraggiamento di qualcuno che magari per sentito dire conosce quella sofferenza, ma non l'ha vissuta e non ha vissuto l'intenso dolore che si ha affrontando magari la circostanza che tu stai attraversando, che hai affrontato. Ecco, questo è Cristo, Dio con noi, Dio vicino a noi, e lui ha sofferto tutti i tipi di sofferenze. Tu puoi trovare in Cristo ogni tipo di sofferenza che c'è nella tua vita. Quali sono le sofferenze che noi viviamo nella nostra vita e quali sono le sofferenze che Gesù ha vissuto nella sua vita? Partiamo da quella fisica. La prima sofferenza è la sofferenza fisica. Cristo, sappiamo, è stato torturato, ha subito delle frustrate, ha subito delle flagellazioni, è stato picchiato, preso a schiaffi, battuto. E io non mi addentrerò nella descrizione della sua tortura, di tutto quello che lui ha patito all'atto della sua morte, ma anche prima, perché quello che lui ha vissuto, la tortura che Gesù ha subito, è talmente pesante che disturba già solo descriverla. È vero, siete d'accordo con me? Già solo addentrarti nella descrizione di tutti i dettagli di quello che lui ha vissuto ti disturba. Come ci sono delle sofferenze che tu stai vivendo, che io posso vivere su questa terra, che solo a descrivere disturbano. Ci sono tante persone che hanno delle sofferenze che solo la descrizione ti turba, perché è talmente grave, talmente pesante, talmente buia come situazione, che ti disturba solo sentirla. Gesù ha subito una sofferenza fisica, nel suo fisico, che è indescrivibile. E lui per questo comprende. Lui comprende quando noi stiamo male. Lui comprende quando abbiamo dei dolori fisici. Lui comprende quando abbiamo degli acciacchi. Io penso alle persone anziane che mi stanno ascoltando in questo momento. Nei tuoi acciacchi Dio ti comprende, Gesù ti comprende. Dio comprende quando siamo nella sofferenza fisica, anche nelle sofferenze quali la stanchezza. Gesù ha avuto stanchezza. Leggiamo nei Vangeli che lui era talmente stanco in un'occasione che nel mezzo di una tempesta, quando la barca imbarcava acqua, lui era lì che dormiva. Pensate che sonno profondo dovesse avere Gesù in quella occasione, che addirittura gli schizzi d'acqua e il movimento della barca non lo hanno svegliato, era distrutto fisicamente, stanco. E penso a tutte le mamme che in questo periodo sono particolarmente stanche, provate dall'essere indaffarate durante il giorno costantemente per i loro figli e durante la notte, nelle veglie notturne, quando i loro figli non dormono. Gesù ti comprende. Gesù comprende la stanchezza che stai affrontando. Gesù ti capisce, non è lontano da te, comprende esattamente quello che stai vivendo. Gesù conosce le nostre sofferenze e lui ci è vicino. Lui comprende addirittura la fame che molti di noi non conoscono neanche. Gesù ha digiunato per 40 giorni, ha avuto una fame tremenda alla fine di quel tempo. E poi fame anche con la folla, quando ha moltiplicato i pani e i pesci. Se la folla aveva fame, figuriamoci Gesù, che era lì che insegnava e quindi dava tutto se stesso, energie che spendeva, aveva fame. Gesù ci comprende per quella che è la sofferenza fisica. Sofferenza relazionale, questa è un'altra categoria di sofferenza che ha a che fare con le relazioni. E Gesù è stato ingiuriato, è stato disonorato, hanno preso le sue stesse parole, i suoi insegnamenti, la sua dichiarazione, io sono re, e all'atto della crocifissione, della tortura su di lui, lo hanno schernito e gli hanno detto, ah, tu sei re, mostrati quale re adesso, scendi da quella croce. Gli hanno messo un mantello di porpora, l'hanno messo una corona di spine, perché sapevano che questa era la definizione che lui aveva dato a se stesso, re di un regno eterno, e in quel momento hanno usato le sue parole per fargli ancora più male. Ti è mai capitato che qualcuno ha usato le tue parole, le ha ribaltate contro di te per farti soffrire? Gesù ti comprende. Gesù ti comprende quando sei deluso delle persone che sono attorno a te. Ricordate nel Getsemani, Gesù chiede ai suoi discepoli di vegliare, di aiutarlo in quel momento, di pregare per lui, con lui. E si lamenta a un certo punto e dice, non siete stati capaci di vegliare con me neanche un'ora. Avevo un'aspettativa, Gesù, voleva almeno il supporto un'ora di preghiera. È stato deluso, per non parlare del fatto che è stato abbandonato. È stato tradito, è stato rinnegato, proprio dalla persona più vicina, se vogliamo dal suo braccio destro, Pietro, per 3 volte è stato rinnegato. E a volte è proprio le persone che ci sono più vicine, nostro marito, nostra moglie, possono essere quelle che più ci feriscono, che più ci abbandonano e hanno il potenziale di ferirci di più perché su di loro contiamo di più. E Gesù contava su Pietro. Eppure da lui è stato abbandonato. Lui comprende quando viviamo tutte queste cose, quando viviamo conflitti, quando viviamo offese, quando viviamo quella rabbia, quell'odio che non meritiamo, ingiustizie. Ogni sofferenza relazionale, Gesù la comprende perfettamente, benissimo, lui ti comprende. Lui comprende quando tu soffri per le relazioni nella tua vita. Lui ti comprende quando vieni abbandonato, lasciato. Che sofferenza quando vieni lasciato, magari da qualcuno che ti è particolarmente amico o amica, o addirittura da quello che può essere il tuo fidanzato o la tua fidanzata. Penso alla rottura sentimentale, quanto dolore procura una rottura sentimentale. Qualcuno che a un certo punto dice di non andare avanti nella vostra storia d'amore. Dio ti comprende, questo in modo particolare penso a molti giovani, adolescenti che vivono, sono soggetti a queste cose. Gesù comprende anche te, perché lui è stato sentimentalmente offeso, ferito, abbandonato. Lui comprende la solitudine. Quando tutti ci abbandonano, ci lasciano soli nella nostra sofferenza, e spesso succede così, che alla sofferenza si aggiunge altra sofferenza, la sofferenza di essere soli. Gesù comprende questa condizione e questo mi collega alla prossima categoria di sofferenza, che è quella emotiva, quella mentale, lo stress, la paura, l'ansia, il disordine. Quanta sofferenza porta il caos attorno a noi quando le cose vanno fuori dai piani. Per me è una sofferenza. Io sono una persona a cui piace mettere dei punti, mettere degli obiettivi, pianificare le cose. Quando quei piani saltano per una ragione o un'altra, io soffro. E quella sofferenza porta in me una reazione, a volte non è buona come reazione. Gesù comprende quando tutto questo accade. Gesù conosce lo stress. Gesù conosce la paura e l'ansia. Vi ricordate che nel Getsemani lui è arrivato ad avere un'agonia, uno stress, un'ansia, una paura per quello che stava per accadere, che ha cominciato a sudare sangue. Nessuno di noi credo sia mai arrivato a una condizione tale, che è medicamente, scientificamente provata. È una condizione estrema di stress, di ansia, di paura. Gesù ha sofferto quel tipo di sofferenza. Lui conosce la sofferenza emotiva. Lui conosce la sofferenza mentale, lui conosce la sofferenza che noi viviamo quando ci troviamo stressati, schiacciati da circostanze pesanti. Lui ti comprende. Se ti senti stressato in questo tempo, se ti senti in ansia, se hai paura, lui ti comprende. C'è chi ha sofferenza al pensiero di dover soffrire. C'è chi mi sta ascoltando in questo momento e questo messaggio è particolarmente scomodo perché il solo pensiero di dover soffrire gli porta sofferenza. Cioè soffri in anticipo rispetto a una sofferenza che ancora non stai vivendo ma che prospetti davanti a te. Beh, Gesù conosce anche questo tipo di sofferenza. Nel Getsemani lui non sapeva ancora, non stava ancora soffrendo delle torture di cui doveva soffrire. Eppure già soffriva, perché comprendeva quello che gli stava davanti. E a volte è così. A volte è così quando cominciamo a sentirci male, quando ci arriva una notizia negativa, prospettiamo il peggio e cominciamo a costruire dei castelli sempre più grandi e delle paure, delle angosce si moltiplicano dentro di noi e la sofferenza aumenta. C'è un altro tipo di sofferenza ed è quella spirituale. Questa è invisibile, questa a volte è sottovalutata, ma è una sofferenza invadente ed è una sofferenza che, se vogliamo, è la madre di tutte le sofferenze. Dipende direttamente dal peccato nella nostra vita, è la sofferenza che è conseguenza diretta di quella parte nostra che è carnale, è una sofferenza che è quella sofferenza per chi non conosce Cristo e non ha una relazione con Dio, è quella sofferenza di solitudine, di non avere un confidente in Cristo. E magari tu mi stai ascoltando in questo momento e riconosci di non avere fede in Dio. E questa mancanza di fede ti fa invidiare la mia fede, ti fa invidiare la fede di altre persone e dici io non ho tutto questo e io sono da solo. Beh, questa è una sofferenza che può avere fine. Nel nome di Cristo Gesù tu puoi entrare in questa relazione col Padre e cessare di avere la sofferenza spirituale. Ma voglio parlare ancora di questa sofferenza. È una sofferenza diabolica, è una sofferenza che possiamo attribuire a demoni che si muovono, che agiscono, che attaccano, a volte in maniera imprevista e improvvisa nella nostra vita. È un attacco spirituale, a volte noi viviamo questo tipo di sofferenza, una sofferenza che dipende da un attacco diretto da parte di demoni, da parte del diavolo. Non tutto è attribuibile a demoni, non tutto è attribuibile al diavolo, molto spesso è attribuibile alle nostre scelte sbagliate, ma c'è questa sofferenza. E forse ti stai chiedendo, Gesù ha vissuto pure questa? La risposta è sì, Gesù ha vissuto anche questa sofferenza. Vi ricordate, lui nell'atto della morte, nell'atto della crocifissione, lui si è immolato, ha pagato il prezzo di tutto il peccato del mondo. Sapete cosa significa questo? Che su Gesù è ricaduto tutto il peccato. Lui si è trovato nell'ora più buia che ogni uomo potesse vivere. In quel momento ha vissuto tutte le sofferenze insieme, sebbene la sofferenza lo ha accompagnato nella vita e lui ha vissuto vari momenti di sofferenza per tutta la vita, ma in quel momento ha vissuto tutta la sofferenza fisica, tutta la sofferenza relazionale, tutta la sofferenza emotiva, mentale e anche la sofferenza spirituale. Vi ricordate quando Gesù ha detto, ha esclamato, Padre, perché mi hai abbandonato? In quel momento stava soffrendo spiritualmente perché era disconnesso dal suo Padre, da Dio. Questa è la sofferenza spirituale. Ora, perché mi sono addentrato nel descrivere queste quattro categorie di sofferenze? Beh, perché è importante che noi riconosciamo di quale sofferenza stiamo soffrendo. È importante. La Bibbia ci invita a catalogare le cose nella nostra vita, a riconoscere dove ci troviamo, che cosa stiamo vivendo. I salmi ci aiutano a vedere quanto la preghiera è un riconoscimento della propria condizione. Le richieste a Dio sono un riconoscimento della propria condizione. Quando tu preghi a Dio, credo che lo fai anche tu, ti fermi un attimo prima di parlare con Lui se hai una richiesta e rifletti, qual è il mio bisogno? Beh, io ti invito a riconoscere qual è la tua sofferenza. Mentre mi preparavo per questo messaggio, io ho preso del tempo a riconoscere le mie sofferenze. Mi sono chiesto, ma io di cosa sto soffrendo in questo momento? E pensavo di soffrire molto poco, e poi ho riconosciuto che in diverse categorie stavo soffrendo e ho potuto affidare a Dio le mie sofferenze in una maniera molto chiara, riconoscerle. Posso chiederti questa mattina, oggi, in questo momento che mi stai ascoltando, qual è la tua sofferenza? Di cosa stai soffrendo ora? Come puoi descrivere la tua sofferenza? Riconoscila. E riconoscila non solo in te, ma riconoscila anche in Cristo. Questo è un esercizio che possiamo fare a casa. Se stai prendendo appunti, scriviti sugli appunti. Riconosci la sofferenza e riconosci la stessa categoria di sofferenza in Cristo. È importante che tu riconosci la tua sofferenza e poi vai alla sua parola, alla Bibbia, e vedi Gesù in quale occasione ha vissuto la stessa mia sofferenza. Perché in questa maniera ti sentirai amato, ti sentirai amata, ti sentirai compreso, ti sentirai compresa. Io ricordo in passato che c'è stato un periodo buio nella mia vita e stavo soffrendo. Mi sono imbattuto in questo meraviglioso verso, che è il più breve della Bibbia, dove c'è scritto Gesù pianse. E in quel momento è come se Dio parlasse al mio cuore e mi dicesse, io sto piangendo con te. Lui non è lontano da te. Gesù, questo è un altro tipo di sofferenza che la possiamo abbinare alla categoria della sofferenza emotiva, delle emozioni, mentale, è quella empatica. Gesù ha pianto per Lazzaro. Gesù piange con te, per te. È vicino a te. Non è che nella tua sofferenza lui ha una postura di indifferenza, ti punta il dito, sorride e magari reputa che sia troppo superficiale il tuo atteggiamento, che sei troppo immaturo, troppo terreno, troppo umano per lui. No, lui ti comprende. Quindi il mio incoraggiamento a te questa mattina è: riconosci la tua sofferenza e poi riconoscila in Cristo, così che ti senti vicino a Lui e senti Lui vicino a te. E poi quello che io voglio incoraggiarti anche a fare è: studiati e comprendi che cosa Gesù ha fatto della sua sofferenza. Perché, come abbiamo letto, Gesù è stato perfezionato nella sofferenza, e io ho una buona notizia per te oggi. Dio vuole perfezionare anche te attraverso la sofferenza. Ci credi? Dio, attraverso le sofferenze che vivi, ti vuole dare la possibilità di crescere, di maturare, di arricchirti, non di essere impoverito, ma di essere arricchito. Quando ti capita di soffrire, puoi dire a te stesso: questo è un momento di promozione nella mia vita, questo è un tempo nel quale Dio vuole perfezionarmi, vuole farmi crescere. E il perfezionamento è qualcosa che dipende tutto da come elabori e come reagisci a quella sofferenza. Perché c'è questa verità che nella sofferenza Dio non solo ti ama, non solo ti aiuta, non solo ti comprende, ma ti perfeziona. Ma per farlo devi seguire il suo esempio. Perché la sofferenza ha questo potenziale in noi. Ha il potenziale di arricchirci o di impoverirci. Ha il potenziale di farci camminare in una condizione di maggiore santità o in una condizione di depravazione, di carnalità. Noi possiamo nella nostra sofferenza vivere maggiore somiglianza a Dio, santità, e quindi fare più spazio a Dio nelle nostre vite, nei nostri cuori. Oppure possiamo cadere nel nostro vecchio uomo e quindi fare più spazio al diavolo. Se queste parole non sono comprensibili per te, beh, le posso dire anche in una maniera molto più comprensibile, la sofferenza ti può permettere di crescere nell'amore e farti diventare una persona migliore. Oppure la sofferenza può farti vivere sempre più amarezza e peggiorarti come persona. Tu puoi essere un vino che col tempo, se ben trattato, diventa sempre più saporito. Sofferenza su sofferenza, stagione dopo stagione, tu puoi diventare più buono col tempo, come il vino. Questo è quello che è il destino che Dio ha per te e per me. Lui vuole perfezionarci, farci diventare ancora più buoni, ma c'è anche il potenziale che se non trattiamo bene la sofferenza nella nostra vita, non la rielaboriamo e non la affrontiamo e non reagiamo alla sofferenza come Dio ci indica di fare e seguendo l'esempio di Gesù, allora possiamo essere come una bottiglia di vino aperta che dopo poco si inacidisce e diventa aceto. Dio vuole che io e tu diventiamo la miglior qualità di vino. Più gli anni passano e più stagioni attraversiamo. Lui vuole migliorarti, o se lo vogliamo mettere in termini biblici, portarti di gloria in gloria. Sempre più bello. Come Gesù è stato perfezionato, così tu hai la possibilità di essere perfezionato nella sofferenza. Mi ricordo che 4 anni fa stavo facendo un lavoro a casa, lavoro di bricolage che a me piace fare. A un certo punto mi sono tagliato, non entro nella vivida descrizione di questo incidente, però mi sono tagliato ed è stata una ferita sicuramente tra le più gravi che io abbia mai subito, fisicamente parlando. E quello che istintivamente ho fatto è prendere un tovagliolo e stringere questa ferita e chiaramente a quel punto ho chiamato mio padre, siamo scappati al pronto soccorso. E quello che mi succedeva è che istintamente nel chiudere questa ferita soffrivo al punto tale da sentirmi mancare e in più di un'occasione ero lì che svenivo dal dolore. E questa ferita non la volevo lasciare, volevo tenere stretto a me il mio dito. Ma arrivato al pronto soccorso devi lasciarti andare, devi lasciare che qualcuno curi quella ferita, altrimenti non ha senso andare al pronto soccorso. E quindi a un certo punto ho lasciato andare la ferita e andava sempre meglio. E questo perché solo dopo si è scoperto, attraverso logicamente gli strumenti a disposizione dell'ospedale, che oltre il taglio io avevo una frattura al mio dito. E quindi più istintivamente cercavo di tamponare la ferita, più schiacciavo le ossa fra di loro e maggiore dolore portavo a me stesso. Istintivamente, con questa storia voglio dirti che istintivamente noi possiamo, agendo con quello che è il nostro istinto appunto, aggiungere dolore al dolore. Questo è quello che noi abbiamo il potenziale di fare. Nella sofferenza, perché carnalmente siamo spinti a farci del male e non sappiamo come agire e non riconosciamo che abbiamo bisogno invece di un medico, di qualcuno che sappia come trattare quella sofferenza, noi che cosa facciamo? Nel nostro istinto, nella nostra autonomia, questo è l'istinto dell'uomo, essere autonomi rispetto a Dio, essere indipendenti da Lui. Io so meglio come trattare la mia sofferenza, io ho il diritto di viverla come credo io che debba essere vissuta. E questo non fa altro che aggiungere dolore a dolore. E istintivamente quello che succede è che le persone che sono ferite feriscono. E le persone che sono ferite, al posto di avvicinarsi a Dio, si allontanano ancora di più da Lui. Istintivamente quando siamo feriti, copriamo la nostra ferita piuttosto che scoprirla. Dio oggi ti invita ad andare da Lui, a renderti vulnerabile e a comprendere come elaborare e reagire alla sofferenza che vivi. Questo porterà maturità e crescita e ti permetterà di essere benedetto e di benedizione. E ti avverto, non è istintivo, anzi va contro ogni logica quello che Dio ha da dirti e da mostrarti. Però se tu vai contro la tua logica e contro il tuo istinto, tu crescerai per essere un vino buono e sarai benedetto e benedirai, sebbene ci sarà una forma di sofferenza che si aggiunge alla sofferenza, perché c'è la sofferenza anche di rispondere in ubbidienza a quello che Dio ti chiede di fare. Pensate al sermone sul monte: se uno ti percuote su una guancia, porgili anche l'altra. Che senso ha questo? Eppure Gesù ha dimostrato nel momento del suo maggiore dolore di voler attenersi pienamente al suo stesso insegnamento e a questo modo di vivere. Sappiamo tutti che la sofferenza che si prova nella tortura della crocifissione è una sofferenza che dipende molto dalla respirazione. Quando tu respiri, quando non che nessuno di noi vivrà o vive una cosa del genere, però dagli studi si comprende che quando tu inali e respiri, nel momento in cui sei crocifisso, hai dolori lacinanti in tutto il corpo. Perché di fatto nella crocifissione si muore per soffocamento, perché non hai più la forza di vivere quel dolore che vivi ad ogni respiro. E Gesù, in questa condizione di estremo dolore, ha preso respiro per dare voce alla sua bocca e fare una preghiera di intercessione nei confronti di coloro che l'avevano appeso a quella stessa croce, nei confronti di coloro che l'avevano torturato, nei confronti di coloro che erano il motivo per il quale lui stava soffrendo in quel momento. In quel momento, nella piena sofferenza fisica, lui ha avuto fisica e emotiva tutte le sofferenze che stava vivendo in quel momento, lui ha sofferto ulteriormente per fare una preghiera e dire: Signore, perdonali. Signore, perdonali. Che vino buono, che perfezione. La tua sofferenza può sprigionare amore, come è stato nel caso di Gesù, che è stato aperto, lacinato, torturato, e tutto ciò che è potuto uscire da lui è stato comunque amore, sempre amore. Oppure amarezza, vendetta, rancore, odio, è un senso di giustizia che ti porta a dire: tutt'altro che Signore perdona loro, tutt'altro che offrire perdono. Come puoi elaborare, vivere, reagire alla sofferenza assomigliando a Cristo? Beh, ci sono tre passi fondamentali da vivere. Il primo, l'abbiamo già detto, è: confrontati con l'esperienza di Dio. Chiediti in quale occasione Egli ha attraversato il tuo stesso dolore e come lo ha vissuto. Confrontati con la parola. Il secondo passo è: chiedi il suo aiuto. Che bella cosa! Puoi andare a Dio e chiedere il suo aiuto, perché Lui ti vuole aiutare. Lui ti vuole sostenere nella sofferenza che stai attraversando. Ti puoi lamentare in preghiera. Puoi lamentare in preghiera. Puoi chiedere a Dio che questo calice passi oltre, come Gesù lo ha chiesto, ma puoi aggiungere: sia fatta la tua volontà, perfezionami attraverso questa sofferenza. E il terzo aspetto sul quale voglio soffermarmi è: imita il suo esempio. Vedete, quello che abbiamo letto prima in Ebrei, capitolo 5, versetto 8, te lo voglio rileggere un attimino. Sono queste parole, hanno un peso pazzesco, perché qui dice: benché fosse figlio, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì. Ubbidire a Dio nel momento in cui soffri è la cosa più difficile che si possa fare, ma è la cosa più che porta crescita, maturità, promozione e arricchimento nella tua vita. Ubbidisci a Dio, chiediti: che cosa vuoi tu che io faccia nella mia sofferenza? Come vuoi tu che io reagisca nella mia sofferenza? Vedete, Gesù dopo la sofferenza che ha avuto, si vede che non ha alcun rancore, alcun desiderio di vendetta. Non è andato a Pietro per dirgli: beh, allora parliamo un attimino, mi hai rinnegato 3 volte? E ora? Ti ricordi quella cosa che ti ho detto, che avresti preso responsabilità? Saresti stato quel leader influente, che avresti avuto sulle tue spalle proprio il peso di portare avanti il mio regno, la gloria della Chiesa. Beh, non vale più, io non mi fido di te. Beh, non vale più, guarda, abbiamo chiuso. Gesù poteva avere le sue vendette quando è risorto, ma era completamente puro, sempre santo, prima della croce, durante la croce e anche dopo la croce. Dopo tutto quello che ha patito, è rimasto coerente con le cose che ha sempre insegnato. Rimani coerente con le cose che il Signore ti insegna. Ama, non odiare, non vivere vendetta. E qualcuno in questi giorni mi diceva che in Cina, a seguito della quarantena, c'è un'esplosione di divorzi. Perché c'è stata questa forzatura nella convivenza e quindi i matrimoni hanno subito delle pressioni che si vivono in casa. Sono certo che è quello che stiamo vivendo anche noi qui in Italia. Tante coppie, tante famiglie che piuttosto che perfezionarsi in questa stagione difficile stanno tirando fuori il peggio di loro. Perché nei torti che subiscono reagiscono e creano dolore su dolore e separazione, vendetta, rancore. Tutte queste cose sono la nostra carnalità, e questa carnalità, se non viene bloccata e lavata da Cristo Gesù e modificata mediante il suo esempio, può portare distruzione. Ed è così che i matrimoni si rompono, è così che le famiglie si sfasciano. In questa stagione, in questo tempo, nella tua sofferenza, perché non nego che c'è sofferenza, devo stare a fianco costantemente a tua moglie, ai suoi bisogni, alle sue ricerche di attenzione, alla sua emotività, e poi a tuo marito nella sua pigrizia o in quelle cose che vorresti fare ma non fa, nelle aspettative mancate, in tutto quello che stiamo vivendo nel matrimonio in questo tempo. Tu hai la possibilità di portare il tuo matrimonio a un livello di santità maggiore e a un livello di perfezione maggiore, oppure a un livello di carnalità. La mia preghiera è che tu possa in questo tempo, in questa stagione, vivere qualcosa che ti porta di gloria in gloria, perché questa è la sua volontà per te. Voglio concludere leggendovi non un altro verso della Bibbia, ma un aforisma che ho letto, nel quale mi sono imbattuto, di un autore contemporaneo. E lui scrive questo, e mi è piaciuto moltissimo, e lo voglio dichiarare anche per la tua vita. Il vino viene dal torchio. Il caffè dalla macina, l'olio dal frantoio, il profumo dai fiori pressati. Quando la vita ti schiaccia, possiamo dare il meglio di noi. Quando la vita ci schiaccia, possiamo dare il meglio di noi. Che la tua sofferenza sia il canale preferenziale per crescere a maturità e diventare una persona migliore, più santa, più simile a Cristo, perfezionata. Avvicinati a Lui, avvicinati a Cristo. Lui ti capisce, Lui comprende la tua sofferenza. Avvicinati a Dio, Lui ti sostiene, Lui ti aiuta e Lui risponde anche alle nostre richieste. Allevia le nostre sofferenze, molto spesso le toglie del tutto, altre volte cammina con noi attraverso la sofferenza. Lui ci è vicino, Gesù ti arricchisce. Questo è un tempo di arricchimento e io lo confesso per la mia vita e per la tua vita. Vogliamo pregare insieme, vogliamo rivolgerci a Lui. chiedo a te di chiudere i tuoi occhi dove ti trovi. Voglio pregare per la tua vita, per le tue sofferenze, per quello che stai attraversando. Gesù, io prego che la tua esperienza possa esserci di soccorso nelle nostre sofferenze. Io voglio benedire in questo momento le mamme nella loro stanchezza, nella fatica che stanno affrontando, i papà nel senso di responsabilità, nell'apprensione di ciò che c'è domani o non c'è nel domani. La sofferenza fisica per chi è nella malattia, per chi sta soffrendo una malattia e in questo tempo ha difficoltà anche di poter usufruire delle strutture ospedaliere, delle attenzioni dei medici. Per chi sta soffrendo proprio per questo virus, io prego la tua guarigione nel nome di Cristo Gesù. Prego che ogni malato, affidandosi a te, possa avere piena guarigione nel proprio corpo e nella sofferenza che possa imparare da te, imparare a dipendere da te, a sottomettersi a te, ad arrendere la propria vita a te, il proprio corpo, le proprie emozioni. Per chi si sente ferito in questo periodo, chi sta subendo nelle relazioni torti, ingiustizie, dolori, nei matrimoni, nelle amicizie, nelle collaborazioni, in ogni forma di relazione, in famiglia, al lavoro, io prego nel nome di Cristo Gesù affinché tu possa darci la possibilità in tutto questo di crescere nella santità. Lo prego nel nome di Cristo Gesù e per ogni altra sofferenza io prego il tuo intervento e sostegno per ogni persona che in questo momento sta ascoltando questa preghiera. Amen. Amen.